A tutti i pensieri mai completati di ognuno di noi. Quando scriviamo un racconto, una poesia, molte volte rimane sospesa nell'aria e buttata via come se non fosse mai esistita. Questa trasmissione vuole narrare di questi pezzettini di vita buttati via e lasciarli fluire in radio in modo che siano completati. Aléatoire d'infidélité, tout d'un coup comme ça on décide qu'on va monter de partout, bien sagement, à la queue leu-leu, on marche de mon nez. Il primo racconto è un mio racconto e si chiama La gara per la vittoria. È ambientato in un periodo futuristico, ma non così tanto. Ma bando alle ciance e iniziamo. C'est exactement de ça que je parle. Le sarcasme. Il faut toujours qu'on soit sarcastique, c'est un. On a la trouille, on pense. Si on le reconnaît, on va être taxé de faiblesse. Pensava di riuscire a farcela. Il premio era alto e voleva smetterla con quella vita plumbea, restando sempre nell'ombra, non essendo notato da nessuno, forse nemmeno da se stesso. Ripercorreva con la mente i precedenti vincitori: Aston Presley, Bill Arthur e Jane Billboy. Erano stati abili nel lisciare le domande. Certo, il percorso era stato come camminare su un campo minato. Ogni passo è costato a loro parte di sé, ma ce l'avevano fatta, persino una donna. Ardis non era meno di una donna, di sicuro. Ardis Ponterei risiedeva nei quartieri medio alti di Big City, aveva un impiego più che soddisfacente a livello sociale e lavorava nelle banche. Il fatto che lavorasse nelle banche non comportava che fosse uno sportellista, né un contabile, né un broker. Si occupava di tubi, per la precisione di tubi pneumatici, dell'ultimo tipo a propulsione elettroquantistica. Il lavoro non gli pesava, svolgeva con dovizia di particolare precisione ogni mansione a lui assegnata per la rete di banche Tentacular, coprendo pressoché 6 distretti del quartiere di Big City. Il Run Bank Ghetto, il ghetto delle banche. Nell'ombra rifletteva sempre sull'importanza vitale del suo compito. Senza il trasporto elettroquantistico, le banche si sarebbero fermate, come serpenti stradali in preda ad un lento attacco epilettico. Il sudore caldo della fronte dei guidatori si sarebbe tramutato in sudori artici da parte del personale competente. Ardis Ponterei riusciva a percepire di avere un ruolo nella società, eppure importante. In un certo senso sentiva un certo potere nelle sue abili mani di aggiustatore, manipolatore. Il controllo delle particelle dell'energia lo aveva sempre affascinato, come una falena, e sin da ragazzino aveva sviluppato una propensione verso il mondo cosiddetto immateriale. Ardis pensava di essere, naturalmente molto più vicino alla materia di chiunque altro, e con questa capacità avrebbe potuto, in un momento di follia, pensava, paralizzare quel traffico paradossalmente considerato virtuale. Ah, che buffa circostanza! In un istante di luce. Nonostante tutto, la casa elettroquantistica che lui aveva progettato, che gli permetteva di percorrere i 300 metri quadri della superficie della casa attraverso porte quantiche, non lo riempiva di soddisfazione. Passare dalla cucina alla camera di riposo in un zic, ops, quanto, ed essere il maggiore esperto quantiano di Big Ass City, lo lasciava perplesso. Nessuno sapeva, a parte la gente del settore, il suo nome, figuriamoci il cognome. Ardis Ponterei, Ardis Ponterei, Ardis Ponterei, ripeteva ossessivamente da qualche tempo a questa parte, immerso nel miglioramento del Tevatron 3000, cioè il Tevatron 4000. Ardis bramava la fama e anelava a seguire i campioni di Bonus o Malus rischia tutto, Aston Presley, Bill Arthur e Jane Billboy. Entrare in lizza nella coda dei candidati era arduo. Era necessario avere un fisico perfetto, controllo dei nervi eccellente e naturalmente prontezza di riflesso. Il contratto per accessione dei diritti sulla persona era naturalmente obbligatorio, ma questo era il punto che lo manteneva sereno. D'altronde, con le visiovie, gli orecchi spioni, i termoricercatori, Big Ass City assumeva una certa dimensione giocherellona e molto vittoriana. Le retrovie Inc. producevano ormai da anni l'iction, in un certo senso l'evoluzione della fiction di un centinaio di anni fa. Con i nuovi impianti asettici, trasmissioni come Olfatto Sociale Divertente, gioca con gli organi ad innesto per i più piccini, visioni di altri tempi in modalità occhiorama per i più nostalgici anziani o semplicemente archeologi sociali. La Retrovie Inc. aveva una gamma di copertura emozionale inestale, ampia, e i creativi, fusi con la tecnologia, non avevano ormai limiti allo spettacolo da poter donare al loro pubblico. In ogni caso, lo show più seguito, forse più banale creativamente parlando, era Bonus o Malus rischia tutto. Raggiungeva un picco di condivisione di cervelli dell'80% su tutta la popolazione di Big Ass City. Nella città dove si svolgeva il gioco, le strade, i lunghi familiari e i cervi spettatori galvanizzavano il pubblico, che probabilmente vi si riconosceva, acclamava, sosteneva, inveiva contro il concorrente di turno. Questa breve pillola di trasmissione è stata presentata da Marco Bitpanic per GNU Funk Radio. Arrivederci alla prossima puntata.